Allora, noi abbiamo utilizzato un database di questo European Social Survey che colleziona questionari un po' in tutta Europa, quindi è basato su un campione anche molto elevato. Ovviamente poi noi abbiamo utilizzato le domande che erano già state fatte, però abbiamo cercato all'interno un po' di una nostra ricerca che va avanti da tanti anni, che cerca un po' di suddividere quelli che sono i movimenti di protesta e di disobbedienza tra quelli più inclusivi e quelli più esclusivi, intendendo in questa differenziazione quelli che vanno a difendere un po' i diritti di tutti o comunque a essere inclusivi anche delle minoranze nelle proprie proteste, quelli invece che sono proteste un po' più di difesa dei propri diritti e magari anche in opposizione a quelli degli altri. Questo a partire dalla considerazione che appunto in questi ultimi anni, anche dopo quello che è stata la primavera araba, ci sono stati moltissimi movimenti di protesta, ma molti di questi in realtà non sono risultati essere così tolleranti verso le minoranze o verso quelli che sono i valori democratici. Questo ovviamente può portare a un rischio di riduzione di quelli che sono i valori democratici. La nostra ricerca si inserisce un po' in una letteratura che effettivamente da un po' di anni sta analizzando quelli che sono anche i cosiddetti movimenti populisti, che oggigiorno vanno portare maggiore possibilità a degli autoritarismi di crearsi piuttosto che a un allargamento dei valori democratici. In questa ricerca alla fine abbiamo analizzato, cioè abbiamo suddiviso, abbiamo prima preso le persone che effettivamente dichiaravano di aver svolto delle attività di protesta negli ultimi 12 mesi, ma dopodiché abbiamo suddiviso un po' in due quelli che avevano anche degli atteggiamenti di inclusione e tolleranza verso le minoranze e quelli che invece non avevano tali atteggiamenti. E poi siamo andati a confrontare queste tipologie di partecipanti su altre scale, tra cui i valori, che è questa interessante teoria sui valori che va appunto a vedere quali siano i valori guida delle persone. Per esempio si è visto che chi aveva degli atteggiamenti esclusivi di protesta sono anche persone che danno più importanza ai valori di potere, di successo e di conformismo e meno invece quelli di universalismo e di rispetto degli altri, come vogliamo può essere anche abbastanza ovvio. Però quello che secondo me è sempre più interessante è che tali movimenti di protesta esclusivi molto spesso non danno importanza che vi sia la possibilità di protestare per altri gruppi, e questo ovviamente è a discapito un po' del pluralismo e di quello che può essere poi effettivamente l'allargamento dei valori democratici, partendo dal fatto che sì, viviamo magari in una democrazia, ma non vuol dire per forza che la democrazia vada poi a perseguire dei valori democratici, perché effettivamente in tutti questi ultimi anni abbiamo assistito a democrazie che poi invece hanno promosso delle restrizioni dei diritti anche individuali delle persone. E questo ci deve far ricordare che, come dice Mogadam, che è un grande autore iraniano che poi si è trasferito negli Stati Uniti, ma lui che ha scritto dei libri molto interessanti sulla democrazia e sulla dittatura, lui ricorda che poi le grandi dittature anche dello scorso secolo sono nate in seno alla democrazia, spesso anche con processi democratici. Del resto, insomma, abbiamo appena festeggiato il 25 aprile e l'ascesa al potere sia di Hitler che di Mussolini, insomma, dice questo. Ma senza voler andare a questo, volevo chiedere, certo, la crisi economica ha giocato un ruolo in questo spostamento? Certo. C'è comunque un'analogia che secondo me c'è, non lo dico io, lo dicono tanti autori, tra la crisi del 29 e quelle che sono state ascese di movimenti nazifascisti e la crisi economica che abbiamo vissuto recentemente. Io ho scritto un capitolo per un libro americano recentemente proprio sulle relazioni sociali, mi era stato chiesto di legarle effettivamente a un'analisi un po' di quello che era la crisi economica, e in effetti la crisi economica porta molto spesso le persone a rivedere le proprie priorità, ad andare magari a trovare dei capri espiatori su cui mettere poi tutti quelli che sono delle problematiche economiche individuali o del proprio gruppo, e questo porta effettivamente a esacerbare anche quelli che sono degli atteggiamenti di intolleranza. Quindi sicuramente la crisi economica ha giocato molto anche su quelli che erano persone magari che classicamente avevano dei valori molto più inclusivi. La crisi economica purtroppo porta molto più a vedere nel proprio giardino, la propria situazione, come può anche essere normale, ma purtroppo va poi a detrimento di quelli che è l'importanza data a dei valori invece molto importanti. Quindi c'è un concetto che si chiama post-materialismo, che è molto interessante, che effettivamente va a giudicare qual è una una differenza di priorità che uno pone al rispetto dei diritti, se vogliamo, e invece alla sicurezza economica. Beh, nel momento in cui queste due priorità si invertono, c'è molto il rischio che poi queste stesse persone vadano ad appoggiare dei movimenti che poi in realtà vanno sì a dare sicurezza alla persona, ma a tradurre poi queste politiche di sicurezza in politiche di esclusione e discriminazione. Questo è stato quello che è avvenuto con il nazismo e il fascismo, perché poi oggigiorno ci sembra sempre che sia qualcosa in cui magari ci fossero anche delle spinte aggressive delle persone. No, in realtà, come poi dice Bauman, è la grande lezione che ci lascia, molto spesso questi movimenti hanno avuto successo anche nell'indifferenza delle persone, e questa indifferenza verso i diritti delle minoranze è molto spesso promossa da una sovrattenzione individualistica a quelli che sono i propri problemi, che non è che non esistono, ma non possono poi andare a distogliere gli sguardi da quello che sono le sorti dei valori democratici anche.